La Costituzione è una legge speciale, perché la Costituzione è la legge fondamentale dello Stato, cioè sono le regole di base della nostra vita, le regole che ci rendono cittadini. Perché prima della Costituzione, prima del 2 giugno 1946, noi non eravamo cittadini, eravamo sudditi. Ascoltiamo l'articolo, letto da Gaia Messer-Klinger, e poi il mio commento. Perché la Costituzione dobbiamo conoscerla per essere cittadini, cittadini migliori. Articolo 100. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. La Corte dei Conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al governo. L'articolo 100 completa il sistema costituzionale di un'amministrazione basata su freni e contrappesi, quindi su una divisione articolata dei poteri, ponendo a livello costituzionale, quindi come garanzia costituzionale, due ulteriori organi ausiliari, il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti. Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridica amministrativa e tutela della giustizia nell'amministrazione. Noi infatti sappiamo che il Consiglio di Stato nasce addirittura per volere regio nel 1831, perché il re aveva nominato un proprio consesso di consulenza giuridica amministrativa. E quindi la funzione primaria del Consiglio di Stato è quella di fornire pareri alla pubblica amministrazione. Infatti, le pubbliche amministrazioni, quando hanno un dubbio sulla legittimità giuridico-amministrativa di qualsiasi attività, chiederanno un parere al Consiglio di Stato. Ma il Consiglio di Stato, negli anni, ma da anni risalenti, fin dalla fine dell'Ottocento, ha anche assunto funzioni di giustizia amministrativa. Cioè, è l'organo di vertice della giurisdizione degli interessi legittimi dei cittadini. Mi spiego, ciascun cittadino può avere diritti e interessi legittimi. I diritti sono posizioni giuridiche piene che in genere vengono operati rispetto ad altri cittadini. In questo caso si andrà ai giudici civili e penali. Invece, rispetto alla pubblica amministrazione, il cittadino ha un interesse legittimo, cioè ha un interesse alla legittimità dell'attività amministrativa. Un esempio ci chiarisce le idee: il pubblico concorso. Ciascun cittadino che ha i requisiti ha diritto a partecipare al concorso, ma non ha certo diritto a vincerlo. Sulla vittoria del concorso avrà semplicemente un interesse legittimo, cioè avrà l'interesse a che la pubblica amministrazione svolga il concorso in condizioni di imparzialità, parità ed equità. Ecco allora che il non vincitore di concorso farà ricorso al giudice amministrativo. E il giudice amministrativo supremo è proprio il Consiglio di Stato. Infatti, in primo grado abbiamo i tribunali amministrativi regionali, cosiddetti TAR come sigla. Le sentenze dei TAR vengono appellate al Consiglio di Stato, per cui il Consiglio di Stato è un organo ausiliario che ha una duplice funzione, consultiva e giurisdizionale. La Corte dei Conti è invece il supremo organo contabile, infatti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del governo e quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Riferisce direttamente alle Camere dei riscontri effettuati. Quindi la Corte dei Conti deve garantire la tenuta del bilancio, cioè effettuerà un controllo di legittimità contabile e quindi di copertura delle spese sui singoli atti, ma effettuerà anche un controllo successivo più ampio sulla gestione del bilancio dello Stato. Tuttavia anche la Corte dei Conti ha funzioni giurisdizionali. Le funzioni giurisdizionali sono state tradizionalmente quelle sulle pensioni e soprattutto sulle pensioni di guerra, ma la funzione più ampia e diffusa è quella sulla responsabilità dei pubblici funzionari. Infatti i pubblici funzionari rispondono, ai sensi dell'articolo 28 della Costituzione, anche per quella che si chiama la responsabilità erariale, cioè la responsabilità contabile. Un pubblico funzionario che commetta atti impropri, infedeli, illegittimi può creare anche un danno allo Stato, perché ha creato una perdita economica allo Stato. In questi casi sarà rinviato a giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, in un processo che è un processo accusatorio, che è un processo quindi che somiglia a un processo penale, ma che è finalizzato solamente alla valutazione della responsabilità contabile, cioè di se il funzionario infedele abbia creato un danno economico allo Stato. Quindi è anche interessante valutare che se un pubblico dipendente viola le regole di legittimità della propria attività, avrà una responsabilità penale se ha commesso un reato, avrà una responsabilità disciplinare per valutare la legittima permanenza in servizio del dipendente e avrà infine la responsabilità erariale per pagare i danni allo Stato. Eventuali responsabilità invece verso i singoli cittadini che hanno subito un danno dal pubblico funzionario infedele o che si è comportato illegittimamente saranno fatte valere dinanzi ai giudici civili.